usare di opporsi per poter capire come va. Via d'uscita che non va. La psicologia si inverte, il pensiero di esso si converte. Chilometri nel mio cervello, nulla è sotto il mio controllo. Lo spettacolo di chi ci osserva, gioco basso e chi controlla. Quanto sembrerà esatto, in realtà sarà l'opposto. Lo spettacolo di chi ci osserva, gioco basso e chi controlla. Combattiamo le teorie psichiatriche, il controllo è andato, messi in linea dall'incertezza di avere te stesso in ginocchio. Alzati! Troppo tempo è passato! Spezza le catene del controllo. Lo spettacolo di chi ci osserva, gioco basso di chi controlla. Quando sembrerà esatto, in realtà sarà l'opposto. Lo spettacolo di chi ci osserva, gioco basso di chi controlla. Controllo mentale, passo sbagliato, figli di un pensiero, manovra. Certezza di avere un'ipotetica libertà, un cervello che viaggia, un pensiero che si adatta, un pigiama, due sbarre ed un corpo che non conosce.